e non mi sono perché siamo chi parla si mette sui capelli. Allora, è un'iniziativa estemporanea, a qualcuno verrà in mente perché abbiamo messo giù la Bohème, perché la Bohème fu l'opera che inaugurò il Politeama il 14 settembre 1910. Questa è un'aria, un'armenza molto conosciuta che è Gelida Manina, che canta credo Rodolfo. Questo teatro è stato costruito nel 1910 dallo stesso architetto che ha costruito la facciata del Gallio, il Carducci, la Magistrico Mancini qui a Como, il Tempio Voltiano, e si chiamava Federico Frigerio. Era praticamente è stato l'architetto che ha costruito quasi tutta questa zona, anche la banca di Vieni. E c'è l'altro da dire che questo è il Palazzo delle Poste, cioè, è il Palazzo delle Poste. Nello stesso anno viene inaugurato altre due cose. Il 1910 è un anno di molto vitale per l'architettura a livello della nostra città. Viene inaugurato anche l'Istituto Carducci e viene acquisita dal Comune di Como Villa Geno, e quindi riaperta sostanzialmente, non più privatizzata. Che serve a pubblicizzare le persone? Cazzo, scusate. Allora, questo è il primo edificio che è stato costruito in cemento armato. Infatti i Comanschi dicevano che alla prima serata hanno allestito dei passaggi in legno perché non si fidavano. E questo è indicativo, l'ho messo anche sul sito di Facebook, è indicativo di come eravamo già aperti allora sostanzialmente. Non è ancora crollato. La capienza è di 1300 posti. E adesso io non entro nello specifico, ma questa struttura è stata pensata fin dall'inizio per avere non solo il teatro, ma anche l'albergo, il ristorante, e poi c'era un palcoscenico sul retro all'aperto per il Caffè Chantant. Perché questo, la differenza fondamentale tra questo teatro e il teatro sociale è che questo teatro era pensato anche per la rivista, per le cose più leggere, e quindi iniziò con un'opera, poi nella realtà divenne anche alla fine del suo percorso anche patria dei film un po' spinti sostanzialmente per alcuni periodi e quindi proibiti. Venne chiuso nel 1985, nel maggio del 1985, perché non rispettava più alcune norme di sicurezza. Poi venne riaperto, ma solo la parte più bassa, la platea, e quindi da 1300 posti si passò a 400 posti di capienza. Il comune non ha ancora deciso che cosa farle, non mi risulta, però nel 2010 poi ci aggiorni, bene. La chiusura definitiva è dell'agosto del 2005. Allora, c'è un problema legato alla proprietà. Il comune è diventato proprietario della buona parte di questa struttura, che in realtà è di proprietà di una società. Quindi il comune di Como è socio di larga maggioranza di questa società in seguito a un lascito da parte di quello che era il proprietario della quota azionaria maggiore. E da qualche anno il tentativo è stato quello di immaginare un intervento di ricomposizione di questa struttura, di una nuova destinazione ovviamente al suo scopo culturale. E questa cosa potrebbe essere fatta con risorse dei soci, oppure più efficacemente nel momento in cui questa struttura potesse diventare una struttura tutta pubblica e il comune potesse accedere a risorse che lo Stato e anche la comunità europea mettono a disposizione per i beni culturali, per tentare appunto un intervento radicale. Ancora quest'anno nel bilancio del Comune di Como erano appostate 400.000 euro per l'acquisizione delle quote, che non sono di proprietà pubblica. Ci sono alcuni proprietari. Ci sono alcuni proprietari che però non sono assolutamente disponibili, almeno in questo momento, a cedere loro. Questa vicenda lascia tutta questa storia in ostaggio di una minoranza. La prospettiva, secondo alcuni, sarebbe quella, vabbè, allora vendiamo tutto, privatizziamo, lasciamo che un privato ci mette i soldi. E secondo me la strada più corretta sarebbe quella di trovare le strade per portare queste persone a rendersi conto della opportunità, anche come dire di carattere generale, di cedere la quota al comune e consentire l'avviamento di opere pubbliche. Ringrazio Bruno per il chiarimento. C'è questa società che più dell'80% del comune. Sì, cioè noi siamo diventati proprietari di questa quota. Perché grazie a un lascio. È morto e lui ha lasciato il comune. Scusate, una cosa prima di aprire la discussione. Allora, Miriana ha preparato, io ho recuperato l'articolo apparso sul giornale il 15 settembre 1910 e che di fatto dice che cosa, no, il giorno prima, il 13 settembre 1910 e che dice che cosa avverrà all'apertura del Politeama. Gli farei fare questo passaggio. Dal pensiero lariano del settembre 1910. Questa è l'inaugurazione del Teatro Politeama. Mercoledì prossimo, giorno 14, avremo dunque la prima della Bohème di Puccini per l'inaugurazione del nuovo Politeama di Piazza Cacciatori delle Alpi. L'opera è posta in scena con grande cura. Non va dubbio, perciò, che il pubblico vi sarà attratto seralmente numeroso ed applaudire i bravi interpreti. Le parti vennero definitivamente così distribuite. Mimì, Gemma Zauner, Giuseppe, Lina Simeoni, Rodolfo, Noè Mattosic, Marcello, Edoardo Fati Canti, Abelardo Petrina, Collin, Amleto Galli, Alcindoro, Pilade De Paoli, Parpignot, Baragiola. Maestro concertatore e direttore d'orchestra Luigi Solari, maestro sostituto direttore di cori Pietro Moro, numero 45 professori d'orchestra, numero 30 coristi Dambo i Sessi. I prezzi serali sono così fissati: ingresso platea, palchi e balconata lire 2, poltrone di platea e balconata, oltre l'ingresso lire 3. Poltroncine di platea, oltre l'ingresso, lire 2. Posti numerati di gradinate in platea, oltre l'ingresso, 50 centesimi o 30. Galleria, 80 centesimi. È aperto un abbonamento a 10 rappresentazioni ai seguenti prezzi. Ingresso di platea, balchi e balconata, lire 15. Poltrone di platea e balconata, compreso l'ingresso, lire 35. Poltroncine di platea, compreso l'ingresso, lire 25. Le rappresentazioni, salvo casi imprevisti, avranno luogo nei giorni 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 settembre, incominciando alle ore 20:30 precise e terminando in tempo utile perché il pubblico possa usufruire del treno delle ore 16. In partenza per Chiasso e Lugano. Il camerino del teatro per la vendita dei posti è aperto tutti i giorni, dalle ore 17 alle 19. Grazie. Marta? No, volevo solo dire che so che il comune non sa neanche veramente chi sono i proprietari. No, no. Perché il Cenetiempere gira a cercare. Diciamo che ci sono alcuni. Parte dei proprietari che non trovano. Esatto, ci sono alcune leggende su queste vicende. Chiaro che finché non si entra proprio nel dettaglio. Questa è una leggenda che circola, io non lo credo verosimile, no, no, perché no, ogni assetto societario deve essere verificabile in camera. Anche perché è una società di gestione. Le ragioni per non vendere quali sono? 70 questi privati, quanti sono i privati? Ma sono di uno di quelli, lei è uno di quelli. Ah, ecco. Infatti lo dico perché noi siamo pezzati e il Cenetempo cercava dei pezzati di Milano, proprietari, che non sapeva chi erano. Allora e si quindi... sa che sono pezzati, ma non si sa quali. Ma non pezzati. Si sa chi sono, non sono i nostri parenti. Non cioè, sono in Dita Unite. Cercava di rintracciarli, ma non aveva modo, almeno. No, no, questo è verosimile. Questo è verosimile, che siano perse le tracce dei. Ma le ragioni quali sono? Sì. Le ragioni, adesso è chiaro che noi siamo opposizione dentro questa cosa, la vediamo da fuori, però sembra che qualcuno davvero non sia disponibile per una sorta di questione di principio. Probabilmente c'è l'idea che restando dentro se la cosa diventa interessante. In questo momento c'è stata anche una polemica sull'affitto del bar e dell'utilizzo da parte del bar del parcheggio a posteriori che sembra non congruo, però su queste vicende io ho la mia particolare visione, se volete ve la comunico. Io trovo inquietante, al di là del fatto che delle persone possano avere titolo o non avere titolo a stare in strutture pubbliche, io credo che in un momento come questo inneggiare alla rendita sia francamente una questione da guardare con un po' di preoccupazione. Se noi dobbiamo immaginare che il comune dovrebbe in realtà fare un'operazione di riequilibrio rispetto al lievitare dei costi, degli affitti, degli immobili, eccetera, il fatto che appunto un giornale come la provincia dice che comunque tutto è inadeguato dal punto di vista dei canoni, io so di persone, perché una persona mi ha telefonato l'altro ieri, che è una persona disabile con gravi problemi, che ha avuto un alloggio del comune, e dice: io sono preoccupata che il mio nome venga eventualmente buttato sul giornale perché io sto in un alloggio del comune e magari qualcuno dirà che io lo occupo senza come dire diritto, mi mette tra coloro che in qualche maniera si sono intrufolati. Questo è secondo me un po' inquietante. È vero che bisogna andare a vedere chi occupa gli immobili pubblici, a che titolo e con quali canoni. Su questa storia del Politeama probabilmente varrà la pena di capire tante cose, come il fatto che ci sono dei locali nello spazio posteriore, non l'ha detto, ma ci sono degli spazi che in anni passati erano stati proposti per esempio come a un uso, a una destinazione di tipo centro giovanile, luogo di incontro, anche tra virgolette senza bisogno di accedere a una ristrutturazione generale dell'immobile, quindi diciamo con una filosofia dei piccoli passi, in attesa che si arrivi a fare un'operazione importante. Lo stanziamento però è rimasto, perché avevo letto sul giornale. Allora, lo stanziamento è in questo momento credo che ancora sia come capitolo, ma capisci, in un bilancio, tu che sai di bilanci, la cosa importante è che ci sia il capitolo. Poi che la cifra sia corretta o aggiustata, tanto trasferisci i soldi da un capitolo all'altro nel momento in cui sono. Quindi il capitolo di spesa rimane, però sembra del tutto evidente che non ci sono prospettive, perché tutti i bilanci del comune chiedono che quella posta venga utilizzata comunque altrove. Ok, c'è un'altra lettura, sempre sull'inaugurazione, così alterniamo un po' gli spazi. Contrariamente a quanto era stato pubblicato, ad inaugurare il nuovo Politeama non verrà più la compagnia d'operetta Maresca col suo appetitoso repertorio, avendo l'impresa deciso di iniziare le rappresentazioni con spettacolo d'opera. Speriamo che nel cambio il pubblico non ci perda. Avremo dunque la sera del 14 corrente la prima rappresentazione della Bohème di Puccini. L'appassionato lavoro che tutto il mondo ha applaudito e che anche Como conosce già, in una riproduzione veramente eccezionale. Esecutori dell'odierno spettacolo saranno Gemma Zavner, Dina Simeoli, Noema Tosci, la pronuncia, Edoardo Fatican, De Paoli e Santoni, direttore d'orchestra l'esimio maestro Luigi Solari. L'orchestra avrà 45 professori ed il coro 30 parti. La serietà dell'impresa Alessandro Pizzi, già favorevolmente nota in arte, ci dà... Affidamento che lo spettacolo sarà in tutto degno del lieto avvenimento che con l'inaugurazione di un nuovo teatro si intende di solennizzare. Dopo lo spettacolo d'opera verrà la compagnia drammatica Rodolfi, poi Flavio Andò, quindi Varietà, Emilio Zago e sulla fine di novembre la Mariani Calabresi. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Sì, voglio aggiungere un'altra informazione. Un paio d'anni fa, forse tre, il consiglio di amministrazione della società, sapete che nella società il rappresentante del Comune di Como è il Votolu, qualcuno l'avrà sentito nominare, aveva tentato un'operazione con il conservatorio perché questa struttura potesse essere in qualche modo raccordata col conservatorio e diventare anche un laboratorio, come dire, di spettacoli e di musica. Questo, esiste un documento, un accordo, insomma, una dichiarazione di intenti che ovviamente rimane lettera morta fin tanto che la questione societaria non viene affrontata. Quindi non esiste proprio un nessun pensiero, qualche elaborazione, qualche ipotesi con realtà anche interessanti come il conservatorio sono state avviate. Il problema davvero rimane quello. Voglio dire una cosa io rispetto alla prospettiva. Non è abbastanza comune che gli spazi culturali di Como muoiano piano piano. Cioè, sia il Politeama che il Teatro Cressoni, centrale, che il Plinio, ex moderno, eccetera, sono lasciati per lunghi tempi inattivi. Il fatto di farli rimanere inattivi li fa sostanzialmente morire. Per di più il Politeama non è nella stessa situazione del Teatro Cressoni. Il Teatro Cressoni non ha più valore storico perché è stato completamente ristrutturato, mentre il Politeama ha ancora un valore storico, 100 anni, e la struttura è ancora bene o male quella di prima. Quindi sarebbe opportuno per queste strutture aspettare a lungo, perché poi la prospettiva sarà l'abbattimento in definitiva, perché la struttura di per sé non sarà neanche più ristrutturabile. Aggiungo qui la cosa su quello che stai dicendo. Mi ricordo addirittura che ci fu un momento in cui si stava per oggi davvero, perché c'è stata la proposta di supermercato. In realtà non è vero che l'abbattimento è a rischio, perché sta sotto tutela dei beni ambientali. Anzi, il fatto che questo sia ancora decentemente conservato, che avrebbe bisogno di assolutamente di restauri filologici, è quello che fa il problema. In realtà il Cressoni era recuperabile più facilmente proprio perché era già manomesso, mentre mettere a mano questo è un grande problema in questo senso. Il conservatorio ne è interessato ancora adesso perché mi è stato confermato e gli usi che qua se ne potrebbero fare sono davvero molteplici, come molteplici erano già allora gli usi di questo caso. Quindi dal punto di vista dell'utilizzo non avrebbe grandi problemi a trovare molti utilizzi. Il problema vero, diciamo, molti patrimoni quando te l'ha posto questo, molti di più di quelli che ce ne sarebbero voluti quando te l'ha posto in persona, che tanto la più parte della popolazione. Questo non lo si può fare dalla popolazione perché non la tutela. Quindi quello che noi possiamo vedere di questo posto qui è vedere andare la scelta non più a pezzi, ma secondo me non a rischio di essere, come dire, cannibalizzato. Ci sto provando perché ricordo che non era il Tolo, forse era direttamente il Comune, che aveva pensato di metterci una torre alberghiera, quindi in tempi recenti, piccola, per andarsi a finanziare la prezzo. Ecco, sono queste cose qui su cui adesso qui bisognerà. Però questo però non è mai stato ufficiale, diciamo, una delle tante cose. L'unica cosa vera è stato il tentativo di fare. C'è un documento col conservatorio, quello è un atto. Altre cose sono, come dire, esatto. Okay, però qualche pericolo devo dire c'è, che dal punto di vista letterario, diciamo, di produzione storico letterario, sul Politeama non c'è molto, c'è di più sul Cressoni, sul Volteano, eccetera. Sul Politeama c'è poco, gli unici che si sono veramente occupati sono stati proprio quelli del conservatorio, che hanno fatto anche delle tesi di laurea proprio in su. Hanno legato poi all'università per fare delle tesi di laurea su questa cosa. Ma scusate, perché ci sono le finestre aperte? posso dire. Si deteriora prima. Se per quello ci sono anche i vetri rotti su quella finestra. Però ci sono degli splendidi pubblicità del teatro Orizzonti Inclinati. Io li metto sempre lì, no. Io mi dirigerei sulla seconda puntata. Passiamo davanti anche alla Carducci. Ok. Va bene, la seconda tappa è il Bolzano. Okay. Dopo vi diciamo perché abbiamo scelto il Bolzano come seconda tappa. Lì c'è questa collezione che si chiama Museo Itinerante Casartelli. Il Musa quando... Ma si sposta. Allora, nasce negli anni 20 come, con l'idea di fornire un laboratorio a tutte le scuole, quindi laboratorio itinerante, laboratorio scientifico. Lì dentro c'è la fotografia di quella che è la conoscenza scientifica al 1920. Sono quasi tutte strutture conservate in maniera meravigliosa, di fattura francese, quasi tutte. E se andate a visitarla è una cosa straordinaria. Io ogni tanto che amo fare queste cose, anche con gruppi di studenti, amici che vengono da altre parti, quando porto lì dentro la gente rimane sbalordita. Questa è la famosa Sala dei Nobel. Voi sapete che nel 1927, nel primo centenario della morte di Alessandro Volta, qui dentro si tenne un grande congresso di fisici, vennero tutti a Como, tutti a Como. C'era no. Bohr, c'erano... Enunciò una delle teorie Bohr, fondamentali Bohr enunciò qui il principio di complementarità. Sì. L'unico che non è venuto dei grandissimi è stato Einstein, il quale si rifiutò di venire in uno stato che era fascista, evidentemente, lui, di origine ebrea. A parte lui c'erano peraltro tutti. In questa sala che stai noi c'è questo gioiellino. E ci sono le effigie. Ci sono dei medaglioni con il regno. Guardate che questa roba è una cosa che se noi fossimo un paesone della Bavola vivremmo vendendo queste cose qui, mentre in realtà per nostra fortuna o sfortuna non siamo neanche in grado di sapere che ci sono. Qui dentro, da quando c'è l'università, questo teniamola come cosa riservata, un giorno venendo ebbe modo di parlare con il custode, il quale mi confidò che dentro ci aveva trovato dei clochard che ci avevano dormito in quella sala. Per carità, va benissimo, cioè non è questa la cosa che... perché questi... però vuol dire che lì dentro, bene o male, è possibile accedere senza quasi nessun tipo di verifica o controllo, e c'è un vero patrimonio. Se avete voglia e tempo, passate a vederlo, perché secondo me è uno dei gioielli di Como. Sì, la cosa scandalosa è che allo stato attuale non esiste un giro turistico queste cose. Io l'ho visitato recentemente, questo 20 giorni fa, l'hanno aperto, c'era una discendente dei Musa che ha fatto da presentatrice. L'ambiente è bello in modo straordinario, è stato arredato da artigiani di Cantù con mobili costruiti per la sala. Essendo una sala con ovale, con delle aperture particolari, tutti i mobili sono per quella collocazione. La ditta, la fabbrica, il laboratorio francese che produceva all'epoca quelle cassette, sono delle cassette portatili, poi è bruciata. Quindi non c'è più neanche possibilità di avere dei pezzi ancora, quindi sono pezzi unici. Esatto. Ma la bellezza è che sono fatti così bene, ci sono gli animali, l'anatomia umana, c'è di tutto, la mineralogia, gli animali, anche il corpo umano, è costruito in pezzi di gesso, si possono smontare ogni pezzo e sotto c'è l'organo. È una meraviglia, una cosa straordinaria. C'è di tutto, poco conosciuto ed ha funzionato per molti anni come laboratorio di scienze degli istituti delle magistrali. Esatto, il suo momento di gloria è stato quando qui c'erano le magistrali, per chi si ricorda 40 anni fa, ovviamente. È un gioiello che dà a vedere cos'è, è una cosa unica. Vero, ma io dicevo che non c'era un progetto di giro turistico, non solo su questo, cioè non esiste una cosa che non c'è una consistenza, però chiamando si può visitare. In questo momento su questi progetti turistici ci sta lavorando il Politecnico di Milano, cioè il centro volte sono alcuni tentativi di dare un minimo di, però in realtà sono cioè uno che viene a Como ha difficoltà a trovare disponibilità informazioni, non le conoscono nemmeno i comaschi, no, infatti. Meno poi c'era anche tutta una bella storia su questo palazzo, perché è stato costruito così perché l'area, questo è di sbieco, perché l'area era triangolare, l'hanno fatto così per sfruttare al massimo l'area, non è regolare. Molto interessante la storia di questo palazzo. E questo secondo me è una delle statue più simpatiche della città. Ti senti indicato, se vai lì ti senti indicato. Una curiosità, quando il Musa andò a comprare a Parigi questi, spese un patrimonio, andò con la moglie, mi pare la zia, mandò la moglie e la zia da qualche altra parte, lui andò a comprare sta roba, quando tornò preso un cazziatone, però è rimasto, lui lo fece già proprio con l'idea di costruire un museo, sì, perché lo faceva, perché lui si ispirava alla Svizzera ed altri posti simili del Dottrappe. Andiamo. Comunque se vi capita fatevi aprire. Sì, bisogna venire. Tempio Volpiano è vero che è curato, è messo a posto eccetera, ma poi è abbastanza misconosciuto. Ancora oggi il mio collega mi ha detto: ma tu ci sei mai entrato? Io ricordo di esserci entrato all'incirca una trentina d'anni fa, forse anche di più, e non è che me lo ricordi benissimo. Sei sicuro? Allora se ci vai oggi lo trovi completamente cambiato. Probabile che sia cambiato. No, molto. La storia del Tempio Volpiano nasce in realtà nel 1899, perché in corrispondenza, in occasione della grande esposizione che si tenne a Como, primo centenario dell'invenzione della pila, tutta quest'area che vedete qui, è tutta coperta, l'area di lì, era tutta coperta da costruzioni in legno, e all'interno di queste costruzioni venivano riportati anche molti degli attrezzi che aveva utilizzato Volta dall'inizio per i suoi esperimenti. Il problema è che nel 1899 a luglio scoppia un incendio e distrugge praticamente tutto. Uno di quelli che recuperò solo un padiglione, non bruciò, che non venne assolutamente toccato, tutti gli altri bene o male vennero toccati dall'incendio. Uno di quelli che recuperarono le cose di Alessandro Volta fu l'architetto che ha costruito il Politeama. Io così ho letto. Se lo correggo. Allora fu Francesco Sommaini, che era un imprenditore, iniziatore, il promotore, e tra l'altro anche deputato, quindi persona, sì. Il quale ovviamente con altri raccolse i reperti nella sala del Museo Civico e immaginò di dare un ricovero a questi reperti che fossero degni del. Poi passarono 28 anni, Sommaini portò avanti la sua iniziativa, esatto. E fu quello che fece realizzare questa cosa a Federico Frigerio, che è lo stesso, dicevo, autore del Politeama. Ispirato al Pantheon Romano, c'è una ragione per cui non c'è una cupola, perché Sommaini e Frigerio sostanzialmente non intendeva mettere sulla stessa linea, ha un senso anche dov'è, perché è sulla stessa linea visibile percorrendo Viale Cavallotti e allo stesso tempo visibile anche dalla cupola del Duomo. Non voleva rifare una struttura come la cupola del Duomo e quindi in sostanza fece una struttura che venne anche molto criticata perché ha sovrapposto più stili, per questo è il cemento armato. È un cubo enorme di cemento armato con un cilindro sopra e una copertura rotonda a cappello. Il problema è che se voi lo guardate dal di fuori sembra tutt'altro che una struttura razionalista, e invece in quel periodo era preponderante il razionalismo. Vedendo questa struttura razionalisti, anche a me non piace moltissimo. È un classico, poi di fatto ha sovrapposto con materiali moderni istituzione classica. Ha creato una struttura classica, poi questa cosa ormai è superata, la contraddizione, la contrapposizione fra classico e nazionalista, tra forme e interpretazione di interpretazioni diverse dell'architettura ormai è superata, però diciamo che c'era stato vi racconto un aneddoto, un nipote di cui non vi faccio il nome, che è persona conosciuta a Como e che ha avuto anche un ruolo importante a Como, dell'architetto Frigerio, se qualcuno conosce la genealogia può anche identificare. Quando nel 1999, in occasione del secondo centenario dell'invenzione della pila, la pasticceria Belli, che era in via Vittorio Emanuele, qualcuno se la ricorderà, decise di produrre dei cioccolatini a forma di tempio bottiano, che non era una cattivissima idea. Nel senso che se voi andate, che so, a Salisburgo vi danno le palle di Moda, a Parigi ci danno la Torre Eiffel, lì vi danno la Torre Eiffel, che esposto dei cioccolatini con la foto di tempio bottiano, mi sembrava che non mi so se è meglio le palle di nel senso palle che uno che era Como cosa porti via, tra virgolette, uno porta via il tempio di cioccolato, è una buona idea. Vabbè, durante la cerimonia delle cerimonie voltiane al teatro sociale, questa persona con in mano questo cioccolatino mi disse: se ci fosse qui mio nonno, direbbe che si sono avverate le parole di Terragni, perché Terragni, che viveva ovviamente in Como 27, insomma, definiva questo tempio un budino. Allora, con in mano questo cioccolatino, questo nipote disse: ecco, si sono avverate le parole di Terragni ed è diventato un cioccolatino. Sì, la polemica fra Frigerio e Terragni fu storica, rimane. Mi viene in mente un altro riferimento. Prima parlavi dell'allineamento con la in fondo, certo c'è anche il paradello tra tutto che si vede. Mi viene in mente due riferimenti ancora. Piazza Volta, se voi avete notato, la statua di Volta, anzi la piazza, ha delle linee orizzontali che partono dalla base della statua di Volta, che vanno diritto in fondo alla via che finisce oltre il terminus quello, l'albergo, sì. Proprio in fondo, sono allineate anche quelle, non è uno caso, e quelle linee richiamano questa ortogonalità. L'asilo Sant'Elia, che è, tra l'altro anche i Terragni, lì il Palazzo Terragni, famoso, è orientato secondo il movimento del sole. Non è a caso il quadrante che hanno fatto, spiega bene, la rivista che hanno riprodotto, spiega bene questa posizione. Ma anche l'asilo Sant'Elia, anche quello è messo secondo una logica cardinale. Tant'è che anche lì c'è la torre del Baradello che dal ceppo che sta lì in mezzo alla scuola, la scuola d'infanzia, proprio allineata con la torre Baradella. E qui si riprendono questi concetti, questa ortogonalità. Lo stesso architetto Frigerio, anche autore, se non mi sbaglio, del Plinio. Questo non saprei dire. Sì, credo proprio di sì. E quindi anche questo appartiene alla linea. È della Banca d'Italia ed è il più grande architetto dell'eclettismo comasco, no? Quindi poi non c'è mica il Marco, no? È andato. Se no. E comunque io vi raccomando, se non l'avete fatto, siccome io ho collaborato al ridisegno dell'interno del Tempio Voltiano con lo studio Pandacco 10 anni fa, e quella che si chiama la loggia, cioè l'interno, sotto ci sono i dispositivi che sono sopravvissuti all'incendio e quelli che sono stati ricostruiti in vista del 27. Ma nel piano alto, che si chiama la loggia, la chiama Frigerio Loggia, è ricostruito un percorso in cui si ripropone la figura di Alessandro Volta, come lui si autodefinisce, patrizio comasco. Perché Alessandro Volta, che è conosciuto solo come fisico, in realtà nella sua città, anche se è stato ovviamente a Pavia moltissimi anni come docente universitario, nella sua città ha avuto moltissimi ruoli politici, è stato uno dei 40 decurioni, quelli che oggi chiameremmo consiglieri comunali, ha avuto responsabilità amministrative, è stato uno dei delegati che sono andati a Lione, dei 500 delegati, per la formazione della Repubblica Cisalpina. Lui è passato, in quell'epoca si è passato dalla presenza austriaca a quella francese, poi ancora austriaca, poi francese e infine dopo Waterloo di nuovo con gli austriaci. Lui, malgrado questi continui rovesciamenti, come dire, di sistemi di potere, lui è sempre stato una persona riconosciuta e diciamo non toccata per il grande prestigio che comunque lui aveva acquisito. e quando Napoleone si incorona imperatore a Milano, lui va insieme a Giovanni Battista Giovio. Quindi siamo di fronte a un personaggio che non è rilevante soltanto dal punto di vista scientifico, ma è rilevante per il suo impegno civile e politico. È certamente una persona che merita di essere conosciuta di più. È una persona che parla molte lingue, una persona che viaggia molto per l'epoca ed è una persona che riceve onorificenze grandiose. Tra l'altro riceve la medaglia dell'Accademia delle Scienze Inglese, della Royal Society di Londra, ben prima dell'invenzione della pila. Quindi la sua fama scientifica precede abbondantemente l'invenzione della pila, che è evidentemente la cosa più grande che lui ha realizzato. E se voi avete la pazienza di esplorare questo luogo, capite che non si può fare la cosa che è stata fatta da Gaddi, quando, avendo fatto la grande mostra alla Villa Olmo, ti do in omaggio il biglietto per andare al Tempio Volterra. Se uno entra al Tempio Volterra senza una persona in grado di spiegargli i contenuti, entra, fa il giro, torna fuori e dice: boh, mistero, roba vecchia, chissà che cos'è. E quindi questo è un prodotto della cultura, della conoscenza, che però deve essere venduto, tra virgolette, con un pochettino di criterio. Quello che c'è scritto là sopra, che nessuno sta a leggere, è un invito ai visitatori ad essere, come dire, consapevoli del fatto che si entra in un luogo sacro, sacro non nel senso religioso, ma sacro nel senso che questo è un luogo nel quale l'intelligenza, siamo ovviamente alla fine del Settecento, all'epoca voltaiana, all'epoca dell'Illuminismo, ma comunque anche in questo tempio si ricorda la grande, straordinaria capacità dell'ingegno umano. E se voi dal punto di vista architettonico lo visitate, trovate, sono dei medaglioni di marmo che sono nel pavimento, che sono volutamente fatti arrivare da tutte le parti del mondo. Sono 30, esatto, da 30 posti diversi. Per dire che qui dentro non ci sta la piccola Como e la sua storia, ma ci sta rappresentata l'intera umanità. È in contrasto col carattere di esatto, Como. Esatto, assolutamente. Però siamo di fronte a un oggetto, secondo me, straordinario e ricchissimo. Io volevo dire che alcune persone avevo chiesto di prepararsi qualcosa, qualche lettura. Volete leggere qualcosa, forse? Tu hai qualcosa da leggere? Vuoi leggere qualcosa? Se voi avete un libro, una cosa, così, tanto per fermarci con... Mi sento lucciola. Ti senti una lucciola? Guarda. Beh, posso giusto per lettura. Ah, perché se vi piace, se vi piace. Beh, devi farlo prima, la cucciola di farla prima. Serietà zero. Hai sbagliato. Di genere. Tribunale. Lentamente muore chi diventa schiavo delle abitudini, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco e i puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno sbattere il cuore davanti agli errori e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati, chi non trova la grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Un democratico nato è un amante nato dalla della disciplina. La democrazia è naturale a chi è normalmente abituato a prestare spontanea obbedienza a tutte le leggi, umane o divine. Pretendo di essere democratico sia per istinto sia per educazione. Coloro che ambiscono di servire la democrazia si qualifichino, superando anzitutto questa prova del fuoco della democrazia. Inoltre, un democratico deve essere assolutamente disinteressato, deve pensare e sognare non in termini personali o di partito, ma solo di democrazia. Soltanto allora acquista diritto alla disobbedienza civile. Non voglio che nessuno rinunci alle proprie convinzioni o si sopprima. Non credo che un salutare e onesta disparità di opinioni danneggerebbe la nostra causa, ma la danneggerebbero certamente l'opportunismo, i camuffamenti e i compromessi rafforzati. Se sentite il dovere di dissentire, dovreste badare a che le vostre opinioni esprimano le vostre più intime convinzioni e non siano semplicemente concepite come una comoda protesta di fazione. E abbiamo un'ultima cosa abbastanza divertente, che è una poesia, una storia scritta da Jacques Prévert, che praticamente è un tentativo di descrizione di un banchetto in maschera a Parigi, dove lui fa un po' di ironia sui personaggi presenti a questo banchetto. Quelli che piamente, quelli che copiosamente, quelli che tricolorano, quelli che inaugurano, quelli che credono di credere, quelli che cra cra credo qua, credo là, quelli che sgranocchiano, quelli che fanno le andromache, quelli che meglio un giorno da leone, quelli che maiuscolano, quelli che cantano a tempo, quelli che più lucido non si può, quelli che hanno un po' di pancia, quelli che abbassano gli occhi, quelli che sanno tagliare il pollo, quelli che sono calvi dentro la testa, quelli che benedicono le folle, quelli che baionetta in canna, quelli che danno cannoni ai figli, quelli che danno figli ai cannoni, quelli che in preda ai flutti non affondano, quelli che le loro ali da gigante gli impediscono di volare, quelli che in sogno disseminano cocci di bottiglia sulla grande muraglia cinese, quelli che hanno la faccia da lupo quando mangiano l'agnello, quelli che rubano le uova e poi non osano friggerle, quelli che hanno 4810 metri di Monte Bianco, 300 di Tour Eiffel, 25 centimetri di petto e ne sono e ne vanno molto fieri. Il sole splende per tutti, non splende nelle prigioni, non splende in alcuna maniera per quelli che lavorano in miniera, per quelli che tolgono ai pesci le squame, per quelli che mangiano carne infame, quelli che fabbricano forcine per capelli, quelli che soffiano le bottiglie vuote che altri berranno piene, quelli che tagliano il pane con il loro coltello, quelli che passano le vacanze nelle officine, quelli che non sanno cosa dire, quelli che mungono le vacche ma non bevono il latte, quelli che dal dentista non c'è anestesia che tenga, quelli che sputano fuori i loro polmoni nel metrò, quelli che fabbricano negli scantinati le stilografiche con le quali altri scriveranno alla luce del sole che tutto va per il meglio, quelli che hanno troppo da dire per poterlo dire, il sole non splende per quelli che hanno un lavoro, per quelli che non ce l'hanno, quelli che lo cercano, quelli che non lo cercano, quelli che danno da bere ai cavalli, quelli che guardano morire il loro cane, quelli che hanno il pane quotidiano più o meno una volta alla settimana, quelli che d'inverno si scaldano nelle chiese, quelli che il cerimoniere manda a scaldarsi fuori, quelli che marciscono nel vizio, quelli che viaggiano sotto le ruote, quelli che guardano scorrere la Senna, quelli che vengono assunti, licenziati, aumentati, diminuiti, manipolati, frugati, accoppiati, delirati, naufragati, quelli di cui si prendono le impronte digitali, quelli che si fanno uscire a caso dalla fila e che sono fucilati, quelli che sono fatti sfilare davanti all'arco, quelli che non sanno comportarsi nel mondo intero, quelli che mai hanno visto il mare, quelli che sanno di lino perché lavorano in lino, quelli che non hanno l'acqua corrente, quelli che sono votati alla divisa, quelli che gettano il sale sulla neve per un salario assolutamente irrisorio, quelli che invecchiano più in fretta degli altri, quelli che non si sono chinati per raccogliere lo spillo, quelli che muoiono di noia la domenica pomeriggio perché vedono venire il lunedì e il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica pomeriggio, sempre così, sempre così, sempre così, sempre così, sempre così. Di l'anno in cui è stata fatta? Nel 1931. Quindi 4 anni dopo la costruzione di questo posto. In realtà ha un'attinenza con quello che noi stiamo facendo in questo momento anche per un altro motivo. Il 1931 è 2 anni dopo la Grande Depressione, la grande crisi di Wall Street. Attinenza con quello che noi stiamo vivendo adesso anche per queste cose. Molte delle cose espresse in quella poesia mi viene in mente che sono attualissime. Adesso ci trasferiamo alle paratie o a quello che c'è lì. Dovevo solo fare 2 tappe, va bene. Era nei programmi. Il festival a Comonia non è Comonia. Perché pochi hanno l'immagine di Como che era nella realtà fino a 100 anni fa, perché adesso non mi ricordo la data in cui fu soppresso il porto di Como. 1885, 140 anni fa. Sì, ci ha messo quasi 20 anni. Allora, perché ho legato le paratie col Teatro Cressoni che vediamo dopo? Perché sullo sfondo del Teatro Cressoni è stata fatta una... Purtroppo la mia fotocapatrice non viene benissimo. E è stata fatta, c'era proprio il porto di Como così com'era. Teatro Cressoni viene fatto nel 1870, forse uno degli ultimi momenti in cui viene riprodotto il porto così com'era. Il porto, quando noi parliamo delle paratie e di che cosa stanno facendo qui, dobbiamo pensare a una cosa, che l'alveo naturale del lago di Como è la piazza Cavour. Ed è tutta quest'area, quindi è naturale che esca l'acqua. Ok? Vincolarla significa andare contro la natura, fondamentalmente. Ne è una testimonianza il fatto che il porto c'era, era presente, e c'erano anche 2 torri all'ingresso del porto per proteggersi poi dalla... In effetti non c'erano probabilmente in quel momento fuoriuscite d'acqua. No, per un momento. Era già fuori. Il lago questo non ha più un andamento naturale dal 1946, sì, perché nel 1938 si è deciso di costruire le dighe ulginate per regolarne il deflusso. Quindi da quel momento lì le esondazioni non sono più eventi naturali, non sono più. Sono in qualche modo degli eventi condizionati dall'agire dell'uomo, oltre che dalle, Questa cosa è determinante e devo dire che quelli di noi che negli anni 95-96 hanno fatto di tutto per spiegare cosa sarebbe successo, compreso il fatto che qui erano previste strutture, perché il sistema, il famoso muro, che fu una provvidenza, che fu visto perché iniziarono da lì, se avessero iniziato da là forse sarebbe stato visto meno, ma erano delle strutture rigide con dei sistemi a ventola, come il coperchio di un computer, che alzandosi avrebbero poi finito lo sbarramento, con una parte di passeggiata che in caso di lago alto sarebbe stata al di là di queste strutture, accessibili invece nel momento in cui le paratie fossero state messe. Questa cosa, noi che abbiamo visto i progetti, io personalmente sono stato a incontrare uno del gruppo che doveva dare la valutazione di impatto ambientale, lo incontrammo a Milano io e Michaela Landoni, direi nel 96-97, e gli spiegammo la follia della cosa. Questo ci ascoltò, gli raccontammo una serie di obiezioni dal proprio punto di vista metodologico, e questo dopo averci ascoltato dice: tutto molto interessante, noi abbiamo già dato il parere positivo. E questo per dire come questo problema è stato sottovalutato. Poi ovviamente qui dobbiamo dircelo francamente, anche andando verso un'ipotesi di campagna elettorale che possa cambiare la gestione dell'amministrazione. I lavori pubblici come questi, ne abbiamo avuto adesso 3 consigli comunali su questo argomento, scusate che ho cambiato il percorso di ragionamento, ma la rappresentante della Regione Lombardia, un tecnico della Regione Lombardia, ha detto più o meno letteralmente, dovete andare a prendere i verbali: la realizzazione delle paratie è un imperativo di legge, perché la realizzazione delle paratie è voluto da una legge nazionale, la famosa legge Valtellina, fatta dopo la famosa esondazione con disastro dell'87. Questa cosa deve essere portata a termine, a meno che non se ne dimostri l'inutilità. Quindi l'escamotage è dimostrare l'inutilità. Quando, però, quando il processo, come in tutte le opere pubbliche, ha varcato una certa soglia, che adesso per semplificare diciamo una soglia di non ritorno, e quindi è stato dato un appalto, è stato fatto un progetto, è stato appaltato, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, il ritorno indietro è estremamente complesso. Questo dobbiamo dirselo per realismo, ve lo dice una delle persone che è più radicalmente contrario proprio anche culturalmente a questa cosa. Il fatto che il muro abbia impedito, cioè abbia poi generato una reazione, come dire, della popolazione, che in questo momento è diventata una sorta di icona, non cancella il fatto che in piazza Cavour, nel momento in cui le paratie dovessero essere alzate, uno si troverebbe 1,55 m rispetto a, anzi 1,70 m rispetto al punto d'appoggio. Perché dico questa cosa? Perché se l'altezza del lago non è un elemento artificiale, ma è un elemento naturale, ma un elemento artificiale governato. Se io sono il decisore, cioè quello che deve decidere a Olginate, e so che ho un margine di 1,5 m, so che tra una settimana è annunciata una perturbazione con alta intensità di pioggia, io che potrei aprire e abbassare il livello del lago in maniera tale da poter assorbire questa pioggia raccolta in un grande bacino in grigio, in maniera tale da contenerla entro certi limiti, posso scommettere sul fatto che se poi le cose vanno male si alzeranno le paratie. Quindi la mia decisione è modificata dall'esistenza delle paratie, e quindi è sempre più probabile, una volta che queste cose ci fossero, che le paratie vengono alzate. Poi io voglio dirlo con grande franchezza: il fatto che l'acqua del lago sia venduta per mantenere un'enorme area, se non vi ricordo il dato a memoria, agricola della pianura padana nell'irrigazione, non è di per sé una cosa deteriore. Cioè, io credo che noi nella solidarietà nazionale possiamo avere interesse che l'agricoltura funzioni. E vi dico un dato, anzi vi dico due. Questi non sono dati miei, sono dati di un convegno specifico su questo tema che è stato tenuto nel 2009. E luglio, agosto e giugno chiedono in questa regione 80 metri cubi d'acqua al secondo per irrigazione. La portata media dell'Adda sono 160 metri cubi al secondo, il che significa che se il livello dell'Adda dovesse scendere in maniera marcata, non si sarebbe in grado di come è successo nel 2006-2007, quell'anno estremamente siccitoso, vi ricordate? Lì la portata dell'Adda era scesa intorno ai 20 metri cubi al secondo. Parliamo dell'acqua in uscita. Allora voi capite che affrontando una stagione di cui non si conoscono ovviamente gli esiti, quando in primavera piove, è naturale che uno tenda a tenere più acqua possibile nel lago. Chiunque debba gestire un sistema come questo tende a riempirlo. Ora, se non ci sono le paratie, la partita, perché poi c'è un accordo che impegna il gestore a pagare i danni, cosa che non ha mai pagato. Cioè, se tu sbagli a fare i conti e mi allaghi la piazza e fai danni agli alberghi e tutto il resto, tu per quello che sta scritto negli accordi dovresti pagare, cosa che non è mai stata fatta. Invece, se tu domani avrai le paratie, questo è il meccanismo, io decisore decido, beh, ma se sono le paratie, io scommetto non ti devo più dare danni. Non ti devo più dare danni, scommetto di tenere l'acqua lì, e a questo punto se la pioggia abbondante arriva, tu te levi, tira su e io alzo e avremo un mese e mezzo con le paratie alzate. Questa è la questione seria. In questa fase, con tutta la reazione che c'è stata, il sistema tutto o niente, perché prima era un sistema tutto o niente, voi capite che è un sistema a ventola, o è tutto sigillato o è tutto aperto, non c'è una via di mezzo. Si è passati a un sistema, a una situazione come quella attuale, in cui queste strutture non ci sono, non ci sono più. L'alternativa è questa, che noi abbiamo discusso a gennaio del 2010, chiedendo che almeno si passasse a un sistema graduale. Il sistema graduale è un sistema che tu puoi dire mi servono 10 centimetri, non mi serve un metro e mezzo. Io ti do 10 centimetri di margine. Questa è la condizione che attualmente sembrerebbe possibile una volta riposizionate le vecchie balaustre, ricordate quelle con l'ancora, eccetera, con dei sistemi che dicono loro a panconi con inserimento di strutture di protezione graduali, che non devono necessariamente essere messe tutte. Il problema è Piazza Cavour. Cioè, secondo me, stante questo livello della situazione, a parte il problema di una ricomposizione di tutto quanto, e considerato che questa roba qui non la ridemolisce nessuno, evidentemente, noi dovremmo almeno, e questo è stato detto ripetutamente da noi dell'opposizione, che il Comune di Como entri all'interno del consorzio con un potere di decisione, cioè che le decisioni non siano subite ma siano verificate. Perché allo stato attuale non è così. La prospettiva è che questo ente, che è un ente ovviamente sovracomunale, diventi un ente diretto direttamente dalla Regione Lombardia. Se questa cosa dovesse avvenire diventerebbe un organismo molto più politico. Voi sapete che l'atteggiamento del senatore Butti è stato quello di dire, beh, ma se non le paratie, quantomeno che noi entriamo come paesi rivieraschi nella ripartizione degli ultimi del consorzio che vende l'acqua. Questa, che pure sembra una mostruosità, è meno mostruosità di quello che sembra. Cioè, nel senso che uno dice, se io sono parte, anche posso decidere che per me l'interesse economico di una città non allagata vale di più di qualche euro, diciamo brutalmente. Io sono convinto di questa cosa, vi dico il mio parere, conosco la mia, io ho fatto un intervento lunedì sera in Consiglio Comunale molto risentito perché ci sono persone in questa città che, pur avendo noi avuto a disposizione i progetti dal 1995-96, avendo seguito tutti i dettagli, ogni tanto c'è qualcuno che salta su e scopre che le cose stanno così. Le cose si sapeva benissimo come stanno. Cioè, vuol dire, noi abbiamo fatto una settimana nel 96, una settimana di convegni intitolata Capire il Lago, in cui abbiamo cercato di spiegare a tutti che cosa stava per succedere. A tutti. Dicendo, guardate che sta per succedere questa cosa qui, esiste uno studio del magistrato del Po, data 1987, e uno studio dell'Università del Politecnico di Milano, che dicono che intervenendo sulle rapide di Olginate, quindi scavando, drenando la portata in uscita, quindi io faccio un lavoro di dragatura del fiume Adda aumentando la portata, modificando i tempi di apertura delle paratie di Olginate, Lì c'è un sistema di regolazione, quello che dico è un dato, che non consente di aumentare la portata in uscita di più di 3 metri cubi al secondo ogni 2 ore. Capite cosa voglio dire? Questo è stato fatto all'epoca per proteggere chi sta a valle, cioè se apro bruscamente ti arriva un'ondata di piena che travolge tutti. Allora il sistema di apertura consente di aumentare la portata in uscita di 3 metri cubi al secondo in aggiunta ogni 2 ore. Capite con che lentezza viene? Allora, questo studio del Politecnico diceva che è possibile agire su questa velocità senza generare danni. Seconda cosa, agire sulle previsioni che oggi sono certamente possibili a una settimana, in maniera tale da essere in grado di prevedere gli eventi di pioggia, abbassare la quota del lago in maniera sufficiente ad accogliere una grande, come dire, quantità d'acqua che arriva dalle piogge. Questo è il sistema che è stato attuato sul Lago Maggiore. Sul Lago Maggiore c'è esattamente lo stesso problema, ci sono le chiuse in uscita nel fiume Ticino, avevano lo stesso problema, ma poiché c'è una sponda svizzera, negli accordi è dovuta intervenire la Svizzera. La Svizzera ha posto un vincolo di oscillazione dell'altezza del lago. Gli svizzeri hanno imposto questa cosa, cioè fate qualunque cosa, ma l'oscillazione del lago deve essere contenuta in questo range. Quindi nessuna ipotesi di fare delle strutture che consentono in realtà di alzare il lago di 1,5 metri, come succederebbe con le pareti. Allora la domanda. Quindi la soluzione è dare la parte sinistra del lago di Cina. Ma poi tra l'altro adesso voi adesso abbiamo fatto. Noi eravamo presenti come amministrazione comunale cittadina in origine, perché non avevamo la delitto all'ipotesi di entrare. I motivi storici non te li so dire francamente, perché non siamo in questa struttura, però non ci siamo. No, certo. Questo è il dato. Poi vi voglio dire una cosa, veniamo al Tempio Volcano. Poi ti fermo, facciamo degli interventi. Veniamo al Tempio Volcano. Allora, la quota di protezione è una quota, a mio parere, semplicemente casuale, ed è il livello da cui parte la passeggiata, cioè questa è una strada che va leggermente in salita. Stai dicendo che viene preso sotto il Tempio Volcano. Esatto, perfetto. Allora, la quota di protezione, immaginate una riga che parte dal punto in cui finisce questa passeggiata e si incastra su, e che va orizzontalmente non fino male. Alla il Tempio Volcano. Però il Tempio Volcano è rialzato. Allora il buon architetto Federico Frigerio aveva detto: cerchiamo di non perdere, annegato dall'acqua, ciò che si è salvato dall'incendio, e quindi fece questo tempio sopraelevato. Però dobbiamo stare tranquilli che se qui si dovessero avere le paratie e dovessero fare quello che abbiamo detto prima, sì, poi, cioè il problema si sposta alzate, il Tempio Volcano risulta inaccessibile per tutto il tempo in cui le paratie sono alzate, questo è certo, assolutamente. E l'altra cosa che probabilmente la gente non ha capito è che una volta che abbiamo protetto dal lago corriamo il rischio dell'esondazione. Poi ve ne dico un'altra che è scritta dai progettisti. Supponiamo che le paratie siano alzate e che ci sia una bella piena che riempie tutto, e supponiamo che a questo punto per un accidente comincia a piovere in maniera imprevista e il lago esce. A questo punto l'acqua trabocca, quindi non arriva il lago mite che occupa la piazza, ma arriva il lago a cascata da sopra. Questo loro lo scrivono, cioè questi signori scrivono che ovviamente noi non siamo in grado di prevedere questa cosa possa succedere. Se c'è un breakout delle pompe. Dai, poi c'è il problema dell'inondazione. Però attenzione, loro dicono anche un'altra cosa che secondo me, io l'ho contestata, dal punto di vista scientifico sono un sacco di corbellerie, ma non voglio fare il professore. Vi dico solo questa, quando loro dicono che noi con questa barriera ridurremo la frequenza delle esondazioni a una volta ogni 50 anni, se questi fossero eventi casuali, voi sapete, adesso per un attimo fatemi fare il professore, che un evento è casuale solo se... non esiste nessuna sequenza è vietata, cioè se io lancio una moneta e ottengo 1000 volte testa non posso dire che la prossima è sicuramente croce, perché se dicessi questa cosa vieterei una sequenza. I primi 50 anni possono essere domani. Allora sarebbe come dire che una volta che hai realizzato quella cosa nessuno più ti assicuro che per i 10 anni dopo che hai fatto tu hai delle piogge. La spiga potrebbe venire domani. Esatto. L'acqua da dietro poi doveva finire, dopo, l'acqua che viene da dietro. Allora, qui sotto hanno costruito delle vasche. Delle vasche che ovviamente hanno delle pompe che butterebbero l'acqua dall'altra parte. Allora dovresti l'acqua che viene pompata con velocità costante dall'altra parte, mentre l'acqua che ti arriva a monte arriva con un crescendo evidentemente, certo, e poi a calare. Loro hanno stimato, questo lo scrivono loro, noi abbiamo contestato nel 96, più recentemente l'ha detto anche Luccini, loro dicono che hanno stimato questa cosa su una frequenza di piogge decennale. Allora, là la statistica ogni 50 anni, qui ogni 10 anni, quindi il rischio di inondazione, non di esondazione, che il COSI, è uno di cose attenga. Dopodiché io non so se ci siano degli esperti di queste cose, ma recentemente la normativa lombarda per quanto riguarda il numero di pluviali per superficie di tetto ha ridotto la a un pluviale ogni 70 metri quadri, mentre prima era un pluviale ogni 100 metri quadri, perché è aumentata l'intensità delle piogge. Cioè ci sono statisticamente negli ultimi anni piogge di maggiore intensità, magari più breve ma più intensa. Allora, più ti fermo, lo sapevo che questa cosa del paratie prendeva tempo. No, va benissimo, anche perché hai chiarito alcune cose che a noi servono un po' più. Dovremmo andare sempre come cosa. Lei che è alta come una paratia. No, un po' di più. Però io con quei lumini lì non ci sto, cimiteriali. No. Poi mi dovranno spiegare in base a cosa hanno messo questi lumini. Potevano farne a meno, anche proprio croci, cimiteriali. Anche la croce a meno. La domanda che ti faccio, hai qualcosa di puntuale? Ma non so, chi vuole leggere una poesia di Quasimodo? Mi piace. Volete sentire Uomo del mio tempo, la conosci? No. E allora se non la conosci è meglio conoscere. Leggila tu, democraticamente. No, ma la scanto. Si chiama Uomo del mio tempo. Sì. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga con le ali maligne, le meridiane di morte. T'ho visto, eri tu, dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto, sì, eri tu, con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio. Senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta, e questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse al fratello: andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri. Le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, il vento coprono il loro cuore. Questa si chiamava Uomo del mio tempo, fa parte della raccolta, la raccolta Cowboy sommerso. Bello. Dopo ci dici una barzelletta. Non le conosco, perdonatemi. Ma poi non le capisco neanche, devi fare una volta i piedi, se no non rido. Allora, scusa. Andiamo da Piazza Volta. La storia che ti ha dato è stata ampiamente, io più questo. realtà il teatro Cressoni non esiste più da tempo. Questo è un cinema che è subentrato al teatro. Di fatto la struttura iniziale, che era una struttura lignea, non c'è praticamente più, è stato completamente già trasformato. Questo è molto più vecchio del Politeama, ha 40 anni in più del Politeama, è stato aperto alla fine del 1870. Nel 71 venne inaugurato ufficialmente con un veglione mascherato, e questo vi fa capire come il carattere di questo teatro era molto particolare e eterogeneo dal punto di vista del programma. C'era un po' di tutto, cioè facevano un po' di tutto, un po' come il Politeama, non tanto come il sociale. E quindi era indirizzato soprattutto alle classi popolari. Anche la struttura del teatro stesso era indirizzato alle classi popolari, che potevano venire da fuori, come il teatro Politeama. Aveva all'incirca un migliaio di posti, in realtà è sovrastimato, perché probabilmente erano un po' di meno, 800. Perché si chiama Teatro Cressoni all'inizio, 1871? Perché fu voluto da un autodidatta, un letterato autodidatta che arrivò a Como negli anni 50 del 1800. Nel 1850 fonda un giornale che si chiama Corriere dell'Ario e ha già dall'inizio questa sensazione di dover fare il teatro, perché lui come autodidatta si diede al teatro, faceva tutt'altra cosa, faceva giornalista. Si diede a teatro e portò a termine la costruzione del Teatro Cressoni con su disegni il progetto di Pietro Luzzani. Prima del Teatro Cressoni c'era un convento femminile di Sant'Anna, poi fu tirato giù e fu fatto il teatro nel 1871. L'opera che inaugurò il teatro, che a quell'epoca ovviamente non si chiamava Cressoni perché Annibale Cressoni non era ancora morto, e gli fu dedicato alla morte. Nel 1800, quando viene creato, viene inaugurato con l'opera Il Trovatore di Verdi. Nello stesso si sovrappongono due opere iniziali, Il Trovatore e Il Ballo in Maschera, sempre di Giuseppe Verdi. Il Teatro Cressoni a quell'epoca si chiamava Teatro Nuovo, poi ha cambiato più volte destinazione, perché poi è importante ricordare alcune cose, che qui appunto le rappresentazioni erano molto eterogenee, c'erano spettacoli di marionette, di lottatori, di nani, di prestigiatori, era un po' un circo. Ancora più popolare rispetto a quello che dicevo prima del Politeama. Una cosa importante, qui venne fatta la prima proiezione cinematografica a Como del reale cinematografo Lumière nel 1897. Cressoni, un particolare sulla vita di Cressoni. Annibale Cressoni non è comasco, arriva alla fine degli anni 40 del 1800 a Como, dicevo prima, 1850 fonda un giornale che poi si interrompe nel 57 e riparte nel 77. Cressoni muore nel 1881 durante una commedia teatrale. Lui sta assistendo, sta sentendo la commedia teatrale e muore proprio nel suo teatro. Questo è abbastanza da ricordare. Quindi prima proiezione cinematografica, nel 1907 c'è l'ultima opera realizzata al Teatro Cressoni ed è la Carmen di Bizet, nel 1910 viene chiuso temporaneamente, venne riaperto nel 1913 con ristrutturato e destinato prevalentemente al cinematografo, da quel momento in avanti diventa un cinema sostanzialmente. Nel 13 lo riaprono e ci mettono, e questo sembra strano per un teatro, un bar e una pista di pattinaggio a rotelle. Ha detto che ci facevano di tutto, lo so, non entro nei particolari, però ci facevano di tutto. Nel 1935 il bar e la pista vengono eliminati perché si allarga la platea per dare più spazio. Nel 65 viene definitivamente adattato, ristrutturato come sala cinematografica e cambiò due volte nome. In questo periodo si chiamò prima, quindi inizialmente Teatro Nuovo, poi Teatro Cressoni, poi Cinema Odeon e Cinema Centrale, che è quello che ho visto anch'io anni fa. Nel 1997 viene chiuso definitivamente. Anni fa, sì, ci furono varie iniziative. Io penso ad esempio al Teatro Città Murata, che ad esempio spinse per la riapertura di questo spazio, e Mario Bianchi del Teatro Città Murata fece una rappresentazione in cui replicò di fatto l'inaugurazione e lui interpretò Cressoni, Annibale Cressoni, con un barbone e una tuba enorme, una cosa bellissima. Ci sono anche le foto qui. Io non ho altro da dirvi. Forse bisogna... Cosa? Quando hanno chiuso è nel 97. Nel 97. Nel 97. Beh, voglio un ultimo inciso rispetto a questa cosa. Ne parlavamo prima. Non ci sono più cinema. Se noi dobbiamo... Io mi sono fatto dire anche dai miei genitori un po' i cinema che c'erano in giro. Solo a Chiasso ce n'erano due. L'Ariston e l'Italia. Chiusi. Qui a Como c'era il Moderno, che faceva due spettacoli, dove andiamo dopo, che poi è diventato il Plinio. Faceva due spettacoli, due entravi e vedevi due film. La domenica mi portava. Io lì mi ricordo che nel 78 ho visto Rocky, il primo, l'unico accettabile della serie Rocky, sostanzialmente, con la musica, eccetera. E altri, c'era il Volta, che era nell'area dell'Oratorio San Filippo, quindi dietro dove c'è adesso il parcheggio del Valduce, c'era la Storia, che è diventato multisala e poi è stato tirato giù proprio l'altro giorno. C'era il Sociale. C'era il Sociale. C'era l'Embassy. C'era l'Embassy, so che frequentavi. No, i primi lunedì del cinema. L'Embassy era. No, i primi lunedì del cinema erano l'Embassy. Vi vedo interessati. No, vero. I primi lunedì del cinema erano per pararsi. Poi c'hai anche il trovatore. varie opzioni, correggimi, perché ho letto che fra le varie opzioni c'era anche che questo spazio venisse dato come, quando c'è uno spazio vuoto pensano di darlo come la moschea. Una delle prime opzioni era darlo come moschea, senza avere nulla in contrario rispetto alle moschee, però ha un altro significato effettivamente. È un modo come un altro a volte per affogare le iniziative. Cioè, se uno ha bisogno della moschea, tu dagli un posto che deve essere invece recuperato, il posto che è dell'arte, della cultura. È una buona cosa perché il giorno dopo appaiono alcune cose. Ma quando scusa, è ristrutturato pesantemente, non c'era il vincolo delle belle arti qua? Come... Questo non te lo so dire, non sono arrivato a capire perché gli avevano fatto fare. Sì, l'hanno snaturato. Sì, l'hanno snaturato, ma già nel 1913 quando hanno fatto il primo passaggio. Probabilmente lì non c'erano dei vincoli. Un'altra cosa che volevano fare anche qui è un supermercato. Immaginate il contone qui. Non regge perché non ci sono più desideri. Proviamo a fare Arcadia. Anche per quello che dire. No, c'è un povero presidente. Quando c'è qualcosa da fare, fanno un parcheggio, la moschea o il supermercato. No, ma la moschea è messa lì per dire che il giorno dopo appare sul giornale che sono tutti contrari, eccetera. Ma il povero Cressoni si rivolta nella tomba. Allora, una cosa. Tutti i suoi ideali. Che... Sì, anche perché ci ha messo tutti i soldi Cressoni. Ci ha pure messo i soldi. Ci ha messo tutti i soldi e la sua vita era dedicata a questo. Cioè, ma abbiamo stiamo facendo un giro per farci venire rabbia. Mi sto di rabbia. No, questa, dato che siamo, già qui e dobbiamo andare verso il Plinio, passiamo davanti a Palazzo Natta, che invece è una delle cose che viene riutilizzata, perché Palazzo Natta è sede di due rettorati dell'Università dell'Insubria. Palazzo Natta è un palazzo storico, perché per anni però è stato in balia e in condizioni veramente allucinanti. Adesso fortunatamente hanno recuperato anche il convento di Sant'Eufemia, il caso di Sant'Eufemia. No, ma dai, per tirarci sul morale, dopo il teatro Cressoni passiamo da Palazzo Natta. Hai detto giusto, lì mette la prima che un'opera d'arte concettuale, tutta da capire. Però la cosa bella era quando non c'erano, dicevo lui, quando non c'erano ancora le coperture, perché visto così sembra ancora un cantiere. Allora chiudiamo qui questa serata con magari qualche lettura. Sì, che ne abbiamo, mi dispiace ma ho solo così, ma non andiamo più lettura. Siete un po' sfigati. Allora, prima che ci cadano le balle. No, però ho anche Prévert, ho altre cose, se volete le fette. Ecco, Prévert. Dico io una. Allora, vabbè, rifaccio il discorso di prima che abbiamo iniziato prima, il cinema. A Como sono state fatte, vi do anche una sollecitazione dal punto di vista umoristico. Allora, a Como sono state, o nella zona di Como, c'erano tre multisala. A un certo punto ne sono spuntati tre. Uno a Astoria, uno Montano e uno Piazza Gemellato. Io mi ricordo che ero in circoscrizione fra il 90 e il 95 e quel progetto io l'ho bocciato. Non sia stata la circoscrizione che ha detto di no a quel progetto, però l'ha fatto lo stesso. Vi dà un'indicazione di cosa contavano le circoscrizioni da questo punto di vista. Quindi quello là non funziona. Risultato dopo tutto questo periodo, Astoria ha battuto, Astoria ha vissuto come cinema normale per anni in memory, quando è diventato un multisala ha tirato giù dopo due anni, perché due o tre. Piazza Camerlata non funziona, Montano funziona. Vi dico un particolare, io ho seguito per il sindacato l'azienda che c'è dietro il multisala. È un'azienda che fino a qualche anno fa era sottoposta a legge Seveso perché è un deposito di carburante. Non avrebbero potuto, l'unico multisala che è rimasto dei tre gestito è dietro sostanzialmente la Domus Nova, davanti alla Domus Nova, che è un'azienda che potrebbe anche portare a un incendio di un certo tipo. Quindi proprio dove non dovevano farlo, però li ha pagati evidentemente il comune, questo non registrato. Montano, una storia come... dopo il tempo ha fatto il multisala. La questione del multisala non è solo una questione di concentrare in un solo posto, eccetera. Se c'era Alberto ci spiegava che cosa significa il multisala. Il multisala rientra in un circuito che fornisce solo ed esclusivamente determinati film. Quindi il paradosso di quando c'erano i tre multisala attivi tutti e tre è che facevano la stessa identica programmazione. L'unica variabile era a Camerlata, perché per un certo periodo i lunedì del cinema di Alberto sono finiti al multisala di Camerlata, perché gli inglesi erano un pochino più intelligenti, cioè avevano capito che c'era come un grosso gruppo di persone che da anni, ormai 25, quanti sono? Era chiuso il Gloria. Avevano chiuso il Gloria e lui era passato di lì. C'era la possibilità di fare un discorso diverso, cioè il fatto della diminuzione delle sale, sulla carta non sono diminuite perché il multisala comporta una pluralità di sale, però di fatto si è limitata l'eterogeneità del cinema, in sostanza. Cioè, alcuni film non arrivano se non attraverso il Gloria, che fortunatamente ha dietro l'Arci, eccetera, e quindi può continuare con grossi problemi, perché può fare da cinema, ma ad esempio rappresentazioni teatrali non le può fare, perché c'è un problema di sicurezza. Da dire qualcosa, tu abiti a Montano. Si sa la storia di questo edificio? Non sono riuscito ad andare a cercare anche perché è strano. Abbiamo avuto la settimana, abbiamo detto stasera. Perché come cinema era molto strano, una sala messa così. Sì, probabilmente strano. Era stato adattato al cinema. Sì, una leggera discesa, era una strana cosa. Cioè, così andava piatto, poi scendeva giù. La peculiarità di questo cinema, l'ho detto prima, è che si prendevano due film. Era simpatica questa cosa. Tu entravi, vedevi due film, non era male. E tutti fumavano. Ho visto anche. Mi ricordo. Sì, si fumava. Andiamo a importare la domenica, al mezzo allo smog. Totale. No. Allora, prego. Nadia legge. Di cos'è? Per cos'è? Mi chiedevo perché parlare con loro? Perché comprano il sapere per venderlo. Vogliono sentire dove c'è sapere a buon mercato, da vendere a caro prezzo. Perché dovrebbero voler sapere ciò che parla contro la compra e la vendita? Vogliono vincere. La storia non vogliono sapere nulla. Non vogliono essere oppressi, vogliono opprimere. Non vogliono progresso, vogliono vantaggio. Sono obbedienti a chiunque prometta loro il comando. Si sacrificano affinché resti la pietra sacrificale. E vai. Che devo dir loro? Pensavo. Questo voglio dir loro. Decisi. Ok, Anna, tu leggi quell'altra invece? Davvero mi metti anche lui? Non è molto allegro, scusate. Non mi sembra bene. Allora leggiamo una cosa di Bukowski. Oh! Una poesia è una città. L'avevo già letta, sì. Là così, però è molto bella. Te l'ho suggerita io? Sì. Una poesia è una città piena di strade, di tombini, piena di santi, di eroi, di mendicanti e di pazzi. piena di banalità e di roba davvero, piena di pioggia, di tuono e di periodi, periodi di siccità. La poesia è anche una città in guerra. La poesia è una città che chiede una pendola perché. Una poesia è una città che brucia. Una poesia è una città sotto le cannonate, le sue sale da barbiere piene di cinici ubriaconi. Una poesia è una città dove Dio cavalca nudo per le strade come re di Godino, dove i cani latrano di notte e fanno scappare la bandiera. Una poesia è una città di poeti, per lo più similissimi tra loro, e invidiosi e pieni di rancore. Viene in mente una persona. E pieni di rancore. Una poesia è questa città adesso, 50 miglia dal nulla. Le 9.09 del mattino, il gusto di liquore e delle sigarette, né poliziotti né innamorati che passeggiano per la strada. Questa poesia, questa città che serra le sue porte, barricata, quasi vuota. Eppure la gente circola, la vedo, ma non la sento. Luttuosa, senza lacrime, invecchiata senza pietà, il monte di roccia nuda, l'oceano come una fiamma di lavanda, la luna priva di grandezza, una musichetta da finestre rotte. Una poesia è una città, una poesia è una nazione, una poesia è il mondo. E ora metto questo sotto dentro, perché lo veda il pazzo direttore, e la notte altrove, il signore grigiastre, scusate, e signore grigiastre stanno in fila. Un cane segue l'albero fino al lago, mentre piccoli uomini vaneggiano di cose che non possono fare, che non sono in grado di fare, perché sono piccoli. Mi perdonerà un Pasquio, farò qualche piccola aggiunta, qualche variazione sul tema. Il lago non c'era, il lago non c'era. Ma si dice la musichetta, la musichetta, la bicicletta, non la maglietta, la bicicletta, la bicicletta, la bicicletta, se chiude gli occhi, cosa preferisci? Perché non ci arrivo più? Prova a chiudere gli occhi, Luca. A dire musichetta. Musichetta è cosa perché, ma Bruno, prova a chiudere gli occhi. Ascolta, chiudi gli occhi. Quindi mi sono abituato. È un pezzo di Quasimodo? No, perché se no se non c'è niente di quello. 37 minuti di storia naturale. Quella di Brecht aveva molto. Ma tu hai altre due zampe da aggiungere, non sarebbe il caso. Andare via. No. Cioè non andare via. No, che non la amo più. Io che non l'amo più dello scontento per le cose mutabili. Così non la odio più del profondo scontento per le cose che non possono cambiare. Sembra l'inverno del nostro scontento. No, perché oggi abbiamo avuto una discussione con Mario Bianchi in Facebook. Allora, chiudiamo. Allora, vi ringrazio per la partecipazione, vi ringraziamo tutti per la partecipazione. Il nostro obiettivo era buttar lì un'iniziativa estemporanea che però avesse un'indicazione, un senso comunque, anche se estemporanea. Io spero che la prossima volta ci sia qualcuno che si faccia avanti per fare un'iniziativa di questo tipo e che non siamo sempre noi a gestirla, a intervenire, eccetera. Noi abbiamo ancora molte idee sul nostro percorso, abbiamo delle disponibilità anche di attori ad intervenire con iniziative specifiche. Mi piacerebbe continuare questo percorso in questo modo, con l'impegno però che ognuno di noi la prossima volta porta almeno 4 persone. Così. un unico ognuno punto. Di quelli presenti questa volta. Luca, un unico punto. Ci ringraziamo reciprocamente. Non vi ringraziamo, ma ci ringraziamo reciprocamente. Va bene. Gli organizzatori. Sì, no. Ci ringraziamo reciprocamente. Posso fare un piccolo promo di un'iniziativa che facciamo invece noi come Genio Donna domani sera? Alla biblioteca comunale, l'avrete già visto, facciamo la presentazione di un volume scritto da Alessia Mosca e Flavia Perina. Alessia Mosca, deputata PD, Perina, ex direttrice del Secolo, sui temi del femminile, quindi welfare, come ricostruire un welfare sopportabile, quote di genere, c'è la nuova legge delle quote nei consigli di amministrazione delle società di capitale private e pubbliche, quindi ci sarà la facciamo in biblioteca comunale alle 8.45. Sono prevalentemente argomenti di interesse per il pubblico femminile, ma naturalmente per il pubblico anche maschile. Ma è vero che dietro al manifesto Genio Donna c'è scritto stupido uomo? Potrebbe essere, prima di tutto, una parola che ha inventato il Maurizio Riccolini, e come tale la rimettiamo alla sua responsabilità. Nessuna di noi ha mai pensato che... Allora, noi chiuderemmo la serata, chi vuole, con una birra che scatta. Come si chiama?